Cerco un ufficio postale aperto, perché se no qua sclero e non riesco più a pagare le bollette. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Si vede, si va, di umana commedia, che c'è chi la spiega e c'è chi viveva. Si vede, si va, comunque fischiando, cantando, un motivo ci serve comunque. Ci vuole un motivo, Deborah, ci vuole un motivo per muoversi. E infatti, se tu guardi sul Facebook, come faranno altri ascoltatori che ci seguono, potrai vedere che sto esibendo il nuovo modulo di autodichiarazione. Come stai, Deborah? Sto molto bene, grazie. Tanto un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. E effettivamente Ligabue in tempi non sospetti si era inventato, insomma, questo testo, e mai avrebbe pensato che sarebbe stato molto utile utilizzarlo per alleggerirci un po' queste giornate. Allora, abbiamo questa terza edizione del modulo di autocertificazione, ma quali sono le novità rispetto al formato precedente, ai due formati precedenti, Mauro? Allora, in sostanza ci sono due novità. La prima, ovviamente dovuta, cioè l'aggiornamento alle varie fonti normative, per dir così, quindi decreti della Presidenza del Consiglio nuovi, ordinanza del Ministero della Salute, quello intervenuto appunto in questi giorni. L'altra grossa novità è che bisogna indicare anche da dove si viene, come appunto dice la canzone del Liga, si viene e si va, quindi da dove vi state spostando, dove state andando, e quindi lo spostamento è iniziato da e la destinazione è, e quindi bisogna indicare appunto da dove ci si muove, da dove si viene e dove si va. Ricordo che sostanzialmente il modulo è disponibile sempre sul sito del Ministero dell'Interno, interni.gov.it. Poi si può anche, come dire, chiedere la compilazione agli organi accertatori, cioè ci fermano e sciaguratamente siamo senza questo modulo, però possiamo chiedere che venga compilato appunto agli organi accertatori. È buona norma però portarselo già con sé, e poi sarà chi sta facendo il controllo a verificare la bontà delle nostre dichiarazioni. Ricordo così en passant che abbiamo già parlato in un'altra puntata, cara Deborah, che qui si va anche nel penale. Cioè, se si viene fermati, al di là dell'entità della multa, lo schema sanzionatorio non è proprio una passeggiata, ecco, diciamo una passeggiata di salute. Esattamente, una passeggiata mi sembra il termine ideale, appunto. No, la passeggiata è vietata, dovete stare a 200 metri, dobbiamo stare a 200 metri da casa. E naturalmente gli spostamenti vanno limitati al massimo per i motivi già noti, quindi motivi di salute, fare la spesa e naturalmente anche l'accompagnamento dell'animale domestico, cioè il portar fuori il cane, deve essere circoscritto vicino alla propria abitazione. Sempre mantenere le distanze. Esibisco nuovamente il modulo nuovo. Bravo. Lo trovate sui siti. Sì. Rafforzo un po' il messaggio, Mauro, raccontandoti e raccontando ai nostri ascoltatori, per chi pensasse che tutto questo non fosse vero, perché magari non vi siete ancora imbattuti in una pattuglia di polizia o comunque nelle forze dell'ordine che vi fermano e vi chiedono dovizia di particolare rispetto al vostro spostamento. Ieri mi hanno raccontato amici marchigiani di una coppia di signori anziani che io ritengo certamente legittimamente avevano nostalgia dei nipotini e quindi volevano spostarsi in un altro comune rispetto a quello di residenza, sono stati fermati dai carabinieri e i carabinieri con gentilezza hanno detto loro: sapete che cosa facciamo? Vi accompagno io. Dai vostri nipotini invece li hanno portati in caserma, dove hanno dovuto identificarsi e quindi sono stati anche pizzicati, appunto, in maniera, è stata anche una vicenda sgradevole, ovviamente sono stati multati. Qui non è uno scherzo quello che stiamo raccontando, è tutto vero, lo sapete benissimo, perché tante persone sono fermate, a tante persone vengono chieste informazioni molto dettagliate sulla natura e il bisogno del loro spostamento, e chi non è in regola in questo momento viene pesantemente sanzionato, per cui facciamo attenzione. Detto questo, caro Mauro, qualcuno si sposta per la spesa. Esatto, ed è uno dei motivi considerati validi anche nel nuovo modello di autocertificazione. Allora, guarda Deborah, ti voglio dire, stanno già arrivando prima ancora che noi diciamo i numeri di telefono e riepiloghiamo gli argomenti della puntata di oggi, già arrivano le domande. Allora, guarda, mettiamo ordine. 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta. 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Oggi ci occupiamo in particolare, Deborah. Allora, prima cosa, la spesa. Sappiamo che in questo periodo abbiamo dovuto adottare le strategie più disparate per rifornirci, per rifornire la nostra dispensa. Allora, qua i problemi sono stati diversi. Intanto, per chi ha avuto, tra virgolette, come dire, la possibilità di spostarsi, la spesa è stata fatta con provvigionamenti esagerati, e qui abbiamo dovuto chiamare in causa tutta l'associazione di categoria stamattina per tornare a rassicurare le persone che non troveranno sicuramente mai i supermercati vuoti. Gli approvvigionamenti sono garantiti, ma fra un po' lo sentiremo direttamente dai rappresentanti di categoria. Però sono sorti anche altri problemi, e cioè chi ha voluto avventurarsi con la spesa online e può farlo in Lombardia, il servizio è molto efficiente, in questo periodo ha dovuto sperimentare molte difficoltà anche da questo punto di vista, perché chiaramente, data l'enorme domanda, le piattaforme vanno in tilt. Da altre parti del territorio questi servizi non sono disponibili, allora i grandi supermercati, ma anche i piccoli negozi, si sono dovuti organizzare con la consegna della spesa a domicilio, ma anche lì c'è stato tutto una riorganizzazione appunto del settore, che è stata molto impegnativa, per cui oggi vorremmo fare un po' un punto della situazione complessivo rispetto alla riorganizzazione del sistema della grande distribuzione per fronteggiare anche l'emergenza spesa. E questo è il primo spostamento del quale parleremo. Poi parleremo di tutti gli altri, gli spostamenti che hanno a che fare con i viaggi, ed è stato uno dei primi temi che abbiamo affrontato quando è partita l'emergenza, perché le prime sospensioni e i primi annullamenti, le prime cancellazioni hanno riguardato i viaggi di istruzione, quindi le gite scolastiche, ma in realtà poi è tutto il turismo che è letteralmente crollato e adesso è veramente un settore in ginocchio. Per cui, Mauro, come potremmo affrontare il tema questa mattina? Noi affrontiamo questo tema tornando a parlarne con il presidente della Federazione del Turismo Organizzato, Gabriele Milani. Ragioneremo su, allora, che facciamo? Il voucher, otteniamo il voucher, ma ci conviene, possiamo, anche ci interessa avere questo voucher, quali sono i diritti e come sono le possibilità anche di accordarsi con il tour operator, l'agenzia, lo stesso sito forse dove, al quale ci siamo rivolti, chissà se anche da quella parte abbiamo qualche tutela. Ne abbiamo già parlato di viaggi, i nostri ascoltatori affezionati se lo ricorderanno. Vi ricordiamo che le puntate precedenti di Due Denari, così come anche lo speciale di Obiettivo Salute che precede sempre questo nostro programma per una buona mezz'ora con gli interventi dei medici, degli specialisti, è tutta roba riascoltabile o tramite la nostra app di Radio 24 oppure andando sul sito www.radio24.it. Ti segnalo, Deborah, l'apertura in questo momento del sito del Sole 24 Ore ci dice che sì, si arriverà fino a 4.000 euro di multa per gli spostamenti illegittimi. Ecco. Quindi allora si sta ragionando di una nuova stretta. Intanto mi chiede, un ascoltatore chiede, ma se allora devo fare due moduli, perché se mi fermano mentre vado e poi mi fermano mentre torno, beh, ma effettivamente no, potrebbe essere un caso così di una precauzione, però ripeto, chi ci ferma ha con sé anche il modulo, non è una cosa, e se ci ha già, come dire, certificato in andata e ci ha lasciato andare, evidentemente ci certificherà anche al ritorno, mi viene da pensare. Però, come diciamo sempre in questi giorni, fino alla nausea, queste disposizioni sono disposizioni di emergenza e quindi vanno tutte lette, capite, applicate con una dose di buonsenso non enorme, gigantesca. Se tu sei d'accordo, Deborah, a questo punto io passerei al nostro giornale radio del risparmio, perché allora, già vedo... Prego, sì, prego. Lo farei molto volentieri, perché ho già visto sì, tra i vari messaggi che sono arrivati quello di un ascoltatore che sta tornando a scriverci su una questione bancaria, e allora gli vorrei dare subito una risposta, visto che la risposta è proprio fra le nostre notiziole del GRR, e lo farei partire subito molto volentieri. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Deborah, allora, il microfono è tutto tuo. Vai. Grazie, no, volevo rileggere questo messaggio di questo ascoltatore che si chiama Gianfranco, ci sta scrivendo già da diversi giorni, nelle prime giornate di segnalazione del suo problema aveva parlato di un muro di gomma che fanno le banche che in questo momento non accolgono le richieste dei clienti che hanno bisogno di sospendere mutui, i mutui appunto visto che si trovano in difficoltà nel onorare la rata di questo mese, e in particolar modo Gianfranco parla di Unicredit. Allora io credo che qualche volta dipenda un po' anche dal tipo di filiale con la quale abbiamo a che fare, magari qualcuno può essere un po' più in difficoltà ad accontentare i clienti nonostante esista magari una iniziativa, un pacchetto messo in campo dall'istituto di credito. Per quello che riguarda le informazioni che abbiamo noi in nostro possesso, sappiamo che Unicredit ha ampliato quello che ha ribattezzato il suo pacchetto di emergenza a tutta Italia e lo ha anche integrato con altre misure di sostegno, e sono delle iniziative che si aggiungono a delle misure già comunicate in precedenza dalla banca e praticamente si inseriscono in tutta quel maxi pacchetto annunciato dal governo con il decreto Cura Italia. Per quello che riguarda i clienti privati, Unicredit ha fatto sapere di essere già partito con la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate fino a 12 mesi ai clienti piccole e medie imprese, oltre alle misure annunciate dall'Associazione Bancaria Italiana, la moratoria appunto già in vigore da tempo. La banca offre anche finanziamenti aggiuntivi e tutto un pacchetto appunto di sostegno evidentemente per mandare avanti l'attività. Per cui, per quello che sappiamo noi, i mutui si può già chiedere alla banca di avviare l'istruttoria per la sospensione del mutuo, per cui io a questo punto chiedo a Gianfranco, invece di mandarci il messaggio, ci scriva a duedidenari@radio24.it, gli facciamo fare una risposta puntuale e cerchiamo di capire il motivo, perché proprio a lui, che è un agente di commercio, quindi una partita IVA, credo, non venga appunto accontentato in questa sua richiesta. Mauro. Allora, io invece do una precisazione che riguarda i professionisti. Ieri ci hanno scritto in tanti, c'è stata un po' di confusione perché c'è un contrasto tra il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e quanto ha stabilito l'ordinanza della Regione Lombardia. Gli studi professionali aperti o chiusi, chiusi o aperti, allora prevalgono le indicazioni governative, cioè lo studio professionale resta aperto. Naturalmente sono sempre fatte salve e anzi sono rinforzate e rinsaldate le raccomandazioni a usare smart working, quindi meno gente c'è in studio, meglio è. Ieri abbiamo avuto ospite un notaio, ci ha spiegato anche le misure di precauzione che lui adotta con i clienti e con i suoi collaboratori. Gli studi, ripeto, restano aperti perché anche nell'ordinanza della Regione Lombardia si parla di scadenze da rispettare, e siccome non tutte le scadenze sono state prorogate, ci sono scadenze che restano e vanno gestite dai professionisti, gli studi restano aperti. Poi domani avremo, come già annunciato, ospite il presidente dei commercialisti Miani, quindi con lui ragioneremo anche del ruolo dei professionisti e delle difficoltà in questa fase. Deborah. L'ennesimo chiarimento invece a proposito dell'attività di badanti familiari. Allora, non solo le convivenze, chi è impiegato nel settore domestico potrà normalmente continuare a svolgere la propria attività ad ore o a tempo pieno come colf, badante o babysitter. Non c'è nessuna restrizione prevista per il comparto nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo ha fatto ancora una volta con una nota ufficiale a Sindat Colf, che è l'Associazione dei datori di lavoro domestico. Deborah, abbiamo un po' di problemi con il tuo segnale, allora completo io la notizia che comunque tu avevi già ampiamente fornito, cioè non ci sono limitazioni, il lavoro domestico è tra quelli che sono citati proprio nella disposizione governativa ultima, può essere svolto. Naturalmente Assidant Golf rammenta a tutti, ricorda a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di usare la massima prudenza e anche il massimo buonsenso, quindi se si può evitare che il collaboratore, la collaboratrice, la badante, insomma, debbano recarsi al domicilio, si può ricorrere alle ferie, anche a un'anticipazione del trattamento di fine rapporto se si vuole garantire comunque un compenso al collaboratore. E altrimenti, se proprio non si può fare nulla, è chiaro che bisognerà anche agire in modo drastico e questo collaboratore rischierà anche di perdere il posto di lavoro. Tutto ciò premesso, mentre cerchiamo di avere un collegamento il più stabile possibile, magari Carmelo Lauricella oggi al di là in regia potrebbe, dotato naturalmente di mascherine e guanti e accompagnato dalla graziosa presenza di Claudia Schiattone, che è la nostra badante di prossimità quest'oggi, affianca naturalmente l'ottimo Marco Lombardo, badante da remoto. Tutto ciò premesso, dicevo, ascoltiamo due di denari e poi andiamo a ragionare di come fare la spesa. Dillo a due di denari. Buongiorno, vorrei sapere se posso richiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo d'acquisto che ho acceso a dicembre 2019 per la mia prima casa. Attualmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione nella casa e sono fermi causa situazione Covid e causa anche l'ultimo decreto della Regione Lombardia. Ad oggi io e mia moglie e i miei figli viviamo in affitto e non sapremo quando effettivamente potremo entrare nella casa. Grazie, complimenti per la trasmissione e un saluto. Matteo da Milano, ciao! Debora, mi dice Carmelo, l'ottimo Carmelo, che sei tornata in piene forze Io, sì. con noi. Speriamo, allora ero in ottima forma anche prima e qua, come tu sai, è probabile che il mio palazzo sia intasato in termini di linea, perché da quello che posso intuire ci sono molti amici del mio pianerottolo e non solo che stanno lavorando in modalità smart worker come me, per cui è probabile che, come dire, anche questo intasamento di rete forse determini queste difficoltà. Allora, abbiamo già abbastanza risposto a questo signore del Dillo a due di denari, sì, che ci chiedeva appunto sulla sospensione. Debora, nella parte precedente della trasmissione, ne ha già parlato. Invece darei il benvenuto a Claudio Gradara, che è il presidente di Federdistribuzione. Buongiorno, benvenuto a due di denari. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, il tema è fare la spesa ai tempi del coronavirus. Naturalmente qui bisognerebbe già fare una distinzione: abitiamo in una grande città, in una città medio-piccola, oppure proprio in un piccolo paese, perché le modalità sono diverse. Da una parte c'è la pressione sulla grande distribuzione, sui supermercati, dall'altra invece magari si può ricorrere un po' più facilmente a qualche negozio di prossimità. Nei paesi addirittura appunto i rapporti dovrebbero essere un pochino più facili. Come vedete voi la situazione, Gradara? Ma in generale abbiamo sicuramente dei volumi sostenuti di vendita in questo momento, perché tutto fuori casa si sta riversando sull'acquisto di prodotti per l'alimentazione domestica. Comunque sono volumi assolutamente compatibili con la capacità delle reti e con la capacità del sistema di approvvigionamento. Ci sono state delle fortissime ondate di acquisto che nascono nel momento in cui vengono fuori delle indiscrezioni, come è successo sul fine della scorsa settimana rispetto a possibili chiusure dei negozi, e chiaramente riflettono una forte emotività dei nostri concittadini su questo tema. Diciamo che questo tipo di situazioni chiaramente mette in difficoltà l'operatività dei negozi, ma sono dei fatti assolutamente temporanei. La rete distributiva in Italia è assolutamente diffusa sul territorio. Diciamo che in questo momento stiamo mettendo un po' attenzione sulle norme che disciplinano gli spostamenti fra comuni, perché mentre non c'è premesse, le motivazioni che sono totalmente condivisibili, ma chiaramente sui grandi centri urbani questo impatta in maniera estremamente marginale. Su tutti i piccoli centri possono crearsi delle situazioni in cui la rete distributiva è più presente in alcuni comuni e magari certo, poco presente in alcuni. Quindi, ma infatti, Presidente, la interrompo proprio perché mi faccio portatore delle domande di tantissimi ascoltatori, ecco, che allora chiamano da piccoli centri, dicono: ma io il supermercato non ce l'ho nel mio paese, perché è un paese piccolo, devo andare tre paesi più in là, ma mi hanno detto che non mi posso spostare dal comune. Allora, lei ci ha già detto una parola rassicurante: il sistema di approvvigionamento tiene, non accalchiamoci, c'è rifornimento, non stanno esaurendosi gli approvvigionamenti della grande distribuzione. E a questi invece ascoltatori cosa possiamo dire? Ma indubbiamente le disposizioni hanno creato e stanno creando molta incertezza. Noi immediatamente abbiamo chiesto e suggerito, proprio in considerazione della disomogeneità della presenza della rete nei piccoli centri urbani e quindi tutti i problemi che ne possono conseguire, che ci sia un'indicazione di chiarimento che consenta per la spesa alimentare magari di potersi recare nel comune confinante, stabilendo un limite di distanza, proprio perché Il rischio è di creare dei congestionamenti nell'ambito dei comuni dove l'offerta è insufficiente, che poi è quello che si vuole assolutamente evitare, insomma, il fatto che la gente si raggruppi in determinate situazioni. Penso che dovremmo avere qualche chiarimento al più presto, perché effettivamente ci sono una serie di segnalazioni dal territorio di incertezza, quantomeno da parte dei clienti, su questi aspetti. Quindi, Presidente, sì, prego, no, volevo Deborah. Chiedere Mauro la questione della spesa online, no? Perché tu sai che molti di noi hanno attivato, anche vorrei dire qualche volta loro malgrado, perché io sono una grande invece appassionata dell'andare a fare la spesa direttamente al supermercato, non mi piaceva particolarmente e anch'io mi sono dovuta piegare a questa necessità. Però adesso, a parte gli scherzi, i clienti che vogliono sfruttare, Presidente Gradara, questo canale sono improvvisamente aumentati anche moltissimo, soprattutto nei grandi centri come è successo in Lombardia, e chiaramente le piattaforme hanno dovuto sostenere uno sforzo enorme e non tengono. C'è chi si è inventato uno stratagemma di ogni tipo, come per esempio fare la spesa tra mezzanotte e l'una alle due di notte, quando si aprono delle finestre appunto di consegna da parte delle insegne della grande distribuzione. Allora, che cosa state facendo anche per migliorare e possibilmente aumentare questo servizio, che probabilmente dovrà essere utilizzato ancora per diverso tempo da parte di molti consumatori? Allora, la quota del commercio online sull'alimentare era in costante crescita negli ultimi anni, ma tutto sommato siamo ancora a dei valori che sono inferiori all'1% della commercializzazione complessiva. È evidente che siamo in presenza di un boom che è stato totalmente insostenibile dalla capacità organizzativa delle reti, tant'è che le prime slot di consegna sono a distanza di giorni, se non di settimane. Tutte le imprese si stanno attrezzando per potenziare questo servizio, ma parliamo di un fenomeno che moltiplica per n volte la domanda, quindi non può essere un adeguamento immediato, ma ci vorrà un po' di tempo per riuscire, anche tenuto conto poi di tutte le limitazioni alle attività che ci sono in questo momento dettate dalle misure di sicurezza. Quindi sicuramente potrà crescere questa quota, non in tempi brevissimi, e comunque non potrà che rimanere marginale nel medio termine rispetto al totale della domanda di acquisto. Molte aziende si stanno organizzando anche a livello locale, abbiamo rapporti con molte onlus che si fanno carico di un servizio di consegna a domicilio, soprattutto per le fasce deboli, per gli anziani che un po' non possono uscire di casa, un po' inopportuno che escano di casa, quindi sono tutta una serie di iniziative in piedi, direi soprattutto sui territori in questo senso. Allora, diciamo, Deborah, che la facoltà dell'online andrebbe un pochino, magari così, usata con garbo, privilegiando da parte di chi è più avvezzo a questa modalità, certo, anche così consegne più di lungo termine. Come ci conferma il Presidente Gradara, oggi come oggi ordinare online significa avere poi dei tempi di consegna, se tutto va bene, di almeno una settimana, e quindi bisogna organizzare la spesa un po' in questo modo. Poi inviterei, usiamo tanto internet, perché appunto ci sono anche negozi di prossimità o piccoli, sì, piccole aggregazioni di negozi di prossimità che magari si sono messi in movimento anche loro, come ricordavi tu all'inizio. Allora, c'è un po' di confusione, esatto. Qualche ascoltatore dice: ma allora, non ho capito, il supermercato è sicuramente fornito, non c'è problema, però non posso andare a fare la spesa perché sta in un altro comune. Non abbiamo detto questo. Presidente Gradara, vuole tornare a chiarirci questo punto, no, allora, di difficoltà? Questo è un punto, se devo dire, su cui non sono in grado di dare un chiarimento. Anche noi abbiamo chiesto un chiarimento sul punto alle istituzioni, perché oggi il provvedimento parla di casi di assoluta necessità. L'approvvigionamento di generi alimentari generalmente è classificato in questo senso, però qui chiaramente siamo di fronte alle interpretazioni che possono essere date sul territorio, sulle quali obiettivamente, in assenza di un indirizzo chiaro come quello che abbiamo chiesto, possono verificarsi tutta una serie di equivoci. Certo, cioè anche la sostanza. Stavo pensando, Mauro, che magari se tu abiti in un piccolo centro e ti sposti in un altro centro per la spesa, possiamo immaginare che a fermarti possano essere le forze dell'ordine del territorio, che magari sono consapevoli del fatto che la scarsità di servizi in quell'area è evidente, quindi è chiaro che anche lì, esattamente come le persone debbano muoversi con un po' di buonsenso in testa, forse anche le forze dell'ordine, pur nell'ottemperanza molto rigida delle norme, potranno chiaramente orientarsi anche sulla base della conoscenza del territorio, speriamo. Mauro, che cosa ne dici? Lanciamo anche noi questo suggerimento. Mi sembra una considerazione di grande saggezza la tua, Deborah. Allora, io ringrazio il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara, per l'aiuto. La invitiamo, come spesso facciamo con gli esperti che abbiamo in questi giorni, a restare a disposizione di Radio 24 e naturalmente di tutti i nostri colleghi, e non solo noi, che si occupano di dare informazioni alle persone. Certo. E invece adesso sei tu, Deborah, a doverci dare delle informazioni su come stanno andando le borse. Bravi, bravi. Due di denari. Le bollette le potete pagare ovunque, tabacchini, online, applicazioni, non c'è bisogno di fare coda agli uffici postali. Ma non possono fare un'app, cambiano il modulo ogni giorno, facciano un'app. Non tutti hanno sempre a disposizione la stampante. Si può usare anche il modulo vecchio facendo questa piccola modifica, perché questo, se non ricordo male, è il quarto modulo che mettono. Allora, continuano naturalmente le richieste su queste cose di spostamenti. Vi segnalo, lo stiamo mettendo anche sul Twitter, una dozzina di domande e risposte realizzate da uno dei nostri esperti, tra l'altro una voce nota agli ascoltatori, Marisa Marraffino, l'avvocato Marisa Marraffino, che ha proprio fatto una casistica, quando ci si può spostare e quando no, sulla base di delle varie disposizioni. Qualcuno mi dice: ma se non ho la stampante si può uscire anche senza, portiamoci i documenti, soprattutto portiamoci un motivo, perché poi chi ci ferma e accerta il motivo può anche metterci a disposizione il modulo da compilare, ma attenzione, bisogna che la cosa sia valida, sia veritiera. Questo certo, lo volevamo ricordare. Si può usare il modulo vecchio? Devo dire, secondo me sì, è un parere assolutamente personale dato dalla lettura attenta della Gazzetta Ufficiale di questi giorni. Secondo me ha logica, sì, se uno ha in casa quel modulo e non ha una stampante, non ha modo di stamparsi, di procurarsi quello nuovo, vabbè, può uscire con quello vecchio, insomma, tanto quello che conta, ripeto, è il motivo per cui si muove e non il modulo con cui lo giustifica. Per carità. Brancoliamo ancora un po' tutti nel buio attorno a tutto questo, perché è veramente una situazione talmente inedita con la quale stiamo prendendo le misure un po' tutti insieme, vero Mauro? Volevo leggere un paio di messaggi ancora attinenti al tema precedente di un paio di ascoltatori, perché sono carini e magari questo ci darà un po' il pretesto, volendo, di ritornarci prossimamente su questo argomento. Un ascoltatore scrive: perché i supermercati, invece di far accedere ai negozi le persone, non permettono alle stesse di ordinare la spesa e di andarla a ritirare su appuntamento? Il personale del supermercato è sicuramente più veloce delle persone esterne alle strutture. Secondo me, non, da quello che mi risulta, ci sono molti negozi che lo fanno e quindi si sono attrezzati nelle modalità più articolate possibili per venire incontro alle persone. Ci sono grandi centri commerciali che organizzano proprio dei box esterni dove depositano la spesa appunto preordinata dalle persone, e da lì si può ritirare con la possibilità di avere il minor numero di contatti possibili. Anna da Milano invece, questo è un messaggio carino, ci scrive: nei supermercati non sono considerati generi di prima necessità quaderni, pennarelli e matite colorate e tanti altri articoli ancora. C'è chi si lamentava per esempio che non può comprare articoli per la cura del giardino e appunto beni di questo tipo. Ma il governo, dice Anna, lo sa che i bambini delle scuole materne ed elementari sono a casa da 5 settimane e hanno i compiti da fare e magari anche il diritto di disegnare? Anna ha ragione, noi condividiamo questa battaglia e chissà che non si possa ampliare la rosa dei beni che possono essere acquistati famiglie, magari anche questi sono considerati di sopravvivenza per le famiglie, per fare un po' passare del tempo ai bambini. Mauro. E allora apriamo il nostro secondo argomento, cioè quello dei viaggi, sì, cara Debora. Abbiamo in collegamento il presidente della Federazione Turismo Organizzato, Gabriele Milani. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno Debora, buongiorno Mauro e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono Gabriele Milani, sono il direttore nazionale della Federazione di Turismo Organizzato. Ah, direttore, mi scusi, mi avevano segnalato il presidente, non so se l'ho promossa o l'ho retrocessa. Promosso sul campo, visto il periodo. Promosso sul campo, va bene, guardi, la promuovo io direttamente con, in forza dell'autorità conferitami da Radio 24. Allora... I viaggi ovviamente non si possono fare in questo momento. Esiste qualche domanda che mi viene subito, ma può esistere il caso di assoluta necessità? Potrebbe essere, che so, un motivo di salute a giustificare il viaggio? Sì, nei provvedimenti attuali sono ancora previsti dei viaggi per motivi di salute, come lei accennava. Ovviamente non sono più previsti, ma ormai da qualche giorno tutti i viaggi per motivi invece di piacere, i cosiddetti viaggi leisure, che sono stati bloccati per ragioni ovviamente di sicurezza. E allora e questo veniamo... sta comportando, Debora, appunto, una grave crisi del settore. Sì, no, stavo solamente ragionando sul fatto che questa è una nota veramente molto dolente per il settore, che è letteralmente in ginocchio in questo momento e chissà quando potrà ripartire. Ma oltre a questo fatto c'è anche da, appunto, evidenziare, questo è il tema per cui questa mattina abbiamo voluto farci aiutare da Gabriele Milani, c'è tutto il tema di chi ha dovuto cancellare, sono stati migliaia, i propri viaggi nelle ultime settimane. Il primo argomento che noi, Mauro te lo ricorderà, abbiamo toccato non appena è partita questa incredibile emergenza nel nostro paese, c'è stata la questione della completa cancellazione di tutte le gite scolastiche e viaggi di istruzione, e poi nel giro di pochi giorni invece l'annullamento di ogni tipo di spostamento, come ci diceva, e poi provvedimenti del governo che hanno stabilito che per tutte le persone che avessero cancellato viaggi, annullato prenotazioni, dovesse essere riconosciuta la possibilità di ottenere una sorta di indennizzo, risarcimento o comunque voucher da riutilizzare, perché questa è la formula che è stata identificata dalla norma, entro 12 mesi appunto dall'erogazione di questo buono, chiamiamolo così. Non è però così automatico e semplice, no, Milani? Allora, quali sono le problematicità che state affrontando in questo momento nell'ottemperare anche voi la norma? Debora, tanto grazie per aver contestualizzato il percorso con il quale è stato inserito il voucher, nel senso che noi siamo più o meno è passato un mese, ma sembrano passati anni da quando è stato preso il primo provvedimento del 23 febbraio e ricordiamo un po' qual è stato anche il contesto con cui sono stati presi questi provvedimenti. Noi più di un mese fa abbiamo iniziato ad avere dei provvedimenti restrittivi in paesi stranieri, con varie formulazioni, alcuni che bloccavano gli ingressi, altri che invece mettevano in quarantena i nostri viaggiatori qualora fossero stati riscontrati segni di febbre e quant'altro. In quel contesto, quindi tutt'altro che chiaro, addirittura mi sono trovato in un caso personalmente coinvolto un lunedì mattina con dei passeggeri fermi su un aereo alle Mauritius, dove in base alla regione di provenienza li facevano scendere o meno. A quel punto abbiamo iniziato ad alzare un grido di allarme verso in particolar modo il Ministero, il MIBACT, e in una riunione che abbiamo fatto, ma ricordo venerdì 28 febbraio al mattino, abbiamo richiesto degli aiuti nell'affrontare una situazione che stava evidentemente degenerando rispetto a aziende che programmano i loro viaggi con mesi di anticipo, quindi si espongono con tutti i fornitori coinvolti e per questo ricevono degli acconti o dei saldi dai propri clienti. Nel caso di cancellazione totale di tutti i viaggi contemporaneamente era evidente che le aziende non ci avrebbero fatta a sostenere una situazione così straordinaria. In quell'incontro è stato proposto come soluzione l'introduzione del voucher, che poi è stato recepito dal decreto legge del 2 marzo, il numero 9. L'articolo in questione incriminato è il 28. L'articolo è chiaro oggi perché parla di una scelta che può fare in caso di recesso l'organizzatore. Quindi l'organizzatore in caso di recesso può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. E quindi non parliamo di indennizzo, non parliamo di null'altro, ma solo di un voucher come elemento sostitutivo del rimborso. Aspetti, presidente, sì. Scusi, direttore, io voglio proprio promuoverla a questo punto. Scusi, direttore Milani, è il 45esimo. Passiamo al traffico. Purtroppo, temo molto rapidamente perché non ci sono grandi informazioni sulla viabilità in questo periodo. Ci torniamo su questo articolo 28 del decreto legge 9 perché credo sia il cuore un po' di tutti i comportamenti che possiamo tenere. Traffico. Di denari. Sugli ordini online delle catene principali, parlo di Coop S Lunga, non si possono neanche caricare gli ordini. Questa è la situazione, neanche a luna di notte. Se non fanno un miglioramento quantomeno del software per accettare ordini nuovi, credo che la situazione non sia assolutamente di aiuto, soprattutto per le persone anziane. Grazie, Luciano da Brescia. Sì, ne abbiamo parlato anche appunto con il presidente Fipe che ci ha spiegato come effettivamente questa modalità fosse in forte crescita ma ancora molto circoscritta e quindi si è trovata a sopportare una crescita esponenziale proprio delle nostre richieste e il sistema sta mostrando decisamente la corda, lo confermo anche cara Debora per esperienza personale. No, tu non ci stai proprio stamattina con gli incarichi, avevamo il presidente di Federdistribuzione prima, Gradara. Sì, così, esatto. Cosa... Volevo fare un po' la perfida. A cosa l'ho promosso? Dove l'ho spostato? Alla FIPE, alla Federazione dei Pubblici Esercizi, ma non importa, comunque no, sempre bene. Nel settore sono, vabbè dai. Sì, no, vabbè, allora chiedo scusa, ma appunto no, ma alleggeriamo. Ma oramai la Gazzetta Ufficiale mi dà la testa, un po' come il vino. Andiamo, allora. Senti, prima di continuare con Milano, volevo solo fare un ulteriore commento sulla questione bancaria, perché questa veramente mi... disturba molto. C'è un ascoltatore che ci ha scritto, un agente di commercio che è in grande difficoltà e lui ci ha chiesto di fare chiarezza sulla questione della sospensione dei mutui a famiglie e partite IVA, che sono due iniziative diverse che viaggiano su binari diversi, come giustamente l'ascoltatore ci sottolinea, perché se una famiglia ha bisogno di sospendere il mutuo e ha tutti i requisiti può andare a fare la richiesta della sospensione che era già in vigore, il fondo Gasparrini, la Consap eccetera. Invece per i liberi professionisti, le partite IVA che possono dimostrare la riduzione di fatturato possono fare appunto la richiesta di sospensione eventualmente del mutuo secondo quanto prevede il decreto Cura Italia. E l'ascoltatore dice le banche non sanno nulla. Io mi rivolgo alle banche allora a questo punto, Mauro, perché mi rivolgo a tutti i colleghi degli uffici stampa delle banche che continuano a tempestarci di iniziative del proprio istituto di credito che non hanno nulla a che fare con questa iniziativa che è quella più importante da mandare avanti. Per cui non continuate a mandarmi i comunicati con tutte le iniziative che prendete di sostegno al territorio sacrosante, sostenete gli ospedali, fate tutte le donazioni che volete, ma per cortesia mettete nelle condizioni queste persone di non pagare i propri finanziamenti in corso perché non ce la fanno, per cui mi rivolgo a questo punto direttamente alle banche e non fateci fare sempre queste figure da ciarlatani nei confronti degli ascoltatori ai quali rassicuriamo che siete disponibili nella sospensione dei finanziamenti quando invece non è vero. Ti è piaciuto l'editoriale di stamattina? Ma caspita, io chiederò a Claudia Schiattone e Marco Lombardo di estrarlo e di metterlo proprio come memento, non cielo. So, su Facebook, su Twitter, dove volete. Torniamo allora con il direttore della Federazione Turismo Organizzato, Gabriele Milani, che io ho promosso già presidente diverse volte, per parlare di questo articolo 28 del decreto legge numero 9. Allora, detto in italiano, presidente, questo articolo dice: vi daremo un voucher, avete pagato un viaggio, vi daremo un voucher. E quindi come funziona però? Perché non è mica così come dirlo. Volevo solo precisare, quindi scusami Mauro, concludo. Prego. Dicendo che allora, è un provvedimento che il provvedimento non solo è volto a contrastare la diffusione del virus, ma anche a contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, quindi delle imprese del turismo. L'altra cosa che aggiungo è che è una norma di applicazione necessaria, che forse qualcuno è sfuggito, al comma 8 dell'articolo sempre 28, dove la norma di applicazione necessaria è propria volta a tutelare gli interessi del paese per quanto riguarda le organizzazioni anche economiche. Quindi detto questo, oggi gli operatori hanno iniziato a utilizzare questo strumento che è stato anche replicato, e questo lo risottolineo, nell'articolo del nuovo decreto, quello Cura Italia, l'articolo 88 è stato esteso anche nel caso di contratti di soggiorno per le strutture ricettive. Quindi è uno strumento sul quale il legislatore sta puntando per aiutare le imprese in questo momento di grande difficoltà. Oggi che cosa viene fatto? Viene messo quindi a scelta dell'organizzatore un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione, il cui valore è pari al rimborso spettante. Che cosa vuol dire? Pari alle somme che l'organizzatore ha ricevuto dal cliente. Ha tempo l'organizzatore per emetterlo 14 giorni, come recita l'articolo. Quindi stiamo parlando di tutte, per prassi cosa sta succedendo sul mercato, stiamo parlando delle partenze entro un anno dall'emissione. Di solito il voucher, quelli che stanno circolando, sono nominativi. Non sono rimborsabili e cedibili, e qualcuno si riserva, non so, di mettere un voucher per la differenza se ci dovesse essere una prenotazione diversa dall'importo originario, quindi di lasciare comunque il credito residuo, e qualcun altro si sta riservando di applicarlo a una specifica destinazione, perché ricordo che alcuni organizzatori viaggiano solo su determinati paesi, per cui non si può sfruttare questo credito per poi andare a prenotare sulla base dei propri desideri. Questo è come ci stiamo muovendo. Ovviamente ci sono alcuni consumatori che stanno recependo lo strumento, riprogrammando il proprio viaggio, quindi dicendo: tanto viaggerò entro, si spera tutti, entro il prossimo anno, e quindi ho un credito che utilizzerò nel corso di quest'anno. Altri invece lo stanno recependo anche magari su consiglio di qualche azzeccagarbugli che si sta improvvisando per sfruttare magari questa situazione critica, lo stanno recependo male. Allora, la finalità era chiara, era quella di aiutare le imprese del turismo per non farle andare tutte in default, che sarebbe sicuramente una situazione peggiore. Oggi, figuratevi, per noi i viaggiatori sono il nostro patrimonio. Noi in queste settimane gli operatori del settore, tour operator, agenzie di viaggi, hanno fatto i miracoli per riportare decine di migliaia di italiani indietro dai loro viaggi, interamente sostenendo da soli tutti i costi di queste operazioni. Quindi per noi i viaggiatori sono quelli che noi tuteliamo, che assistiamo, che aiutiamo a sognare quando programmano i viaggi. Quindi non sarebbe nostra intenzione volerci appropriare di somme che loro avevano investito per i loro sogni. L'unica cosa che deve essere chiara in questo momento, questo è veramente uno straordinario, le regole ordinarie non possono valere in una situazione di questo tipo, quindi per questo il legislatore fino ad oggi ha trovato questo provvedimento di spostare di 12 mesi un viaggio condividendolo con il proprio organizzatore. E poi c'è il fatto magari di chi ha prenotato direttamente presso la struttura, magari non so se su questo, però l'articolo 28, che è il nostro riferimento, cioè quella, la concessione del voucher, che il presidente, buonanotte, il direttore Milani ci ha spiegato così bene, cioè un provvedimento che va visto dalle due parti, dalla parte del consumatore aspirante viaggiatore, ma dalla parte anche dell'agenzia, e poi c'è invece chi aveva un rapporto diretto con la struttura. Ad esempio ci ha chiamato Franco, che stiamo rapidamente cercando di contattare, non so se l'abbiamo, tra qualche minuto dovremmo averlo in onda. Franco aveva un rapporto proprio direttamente con un rifugio in montagna. Buongiorno Franco. No, buongiorno, io sono un gestore di rifugio in montagna. Lei è il gestore, mi scusi, ho confuso l'indicazione. Prego. Per noi la stagione invernale, che va da inizio dicembre a fine aprile, quest'anno con la neve che è scesa si pensava di arrivare anche a Pasqua, rappresenta l'80% di un fatturato. Certo. Tenga conto che noi in stagione abbiamo circa una dozzina di dipendenti stagionali, ora lavoriamo su caparre, su preventivi, e sì, chiaramente ci gestiamo da soli, siamo abbastanza bravi e i nostri clienti si affidano, danno la caparra, fanno un bonifico e adesso siamo alla prova del 9. Adesso i clienti dicono: vabbè, in questo momento annulliamo il voucher, non mi va bene, rimborsiamo, va bene la cassa, lo Stato ci aiuterà con la cassa, dopo come facciamo? Cioè, allora, adesso chiederemo, sì, sì. Però no, non so questo... se possiamo poi scontare anche queste caparre, cioè, non so se nella norma, io non vedo. Allora, per rispondere genere. A Franco... Grazie Franco. Prego, Milani. Sì, per rispondere a Franco, la fattispecie in questione è stata estesa, come dicevo, dal nuovo DL Cura Italia all'articolo 88 anche ai contratti di soggiorno, quindi anche in quel caso è previsto che la struttura possa emettere un voucher. Però approfitto anche per quello che dice Franco. Allora, noi non prevediamo che prima di almeno 6 mesi, 9 mesi il settore si riprenda. Ho visto ieri uno studio, un report di Cerded che faceva vedere un calo del fatturato che va dal 40% al 70% nel 2020 e con una parziale ripresa di un terzo forse nel 2021. La nostra filiera oggi è rappresentata da aziende che fanno incoming, che fanno outgoing, che fanno business travel, quindi che portano in giro tutti i dipendenti e aziende, che fanno eventi magari legati a fiere e congressi, che fanno viaggi di nozze, che fanno viaggi di istruzione. Ecco, ad esempio oggi la soluzione del voucher non funziona per i viaggi di istruzione, dove l'organizzatore che ha partecipato a un bando di gara ha anticipato tutti i propri soldi a fornitori che in alcuni casi sono anche esteri, quindi con tutte le difficoltà poi di andare a recuperare le somme anticipate ai fornitori, e dall'altro lato dalla scuola e studenti hanno ricevuto dei piccoli anticipi. Certo. È evidente che in questo caso la soluzione del voucher non può essere perseguibile. Ne abbiamo parlato, infatti, no, la interrompo perché siamo veramente agli ultimi 20 secondi di trasmissione, ma ne abbiamo parlato, direttore Milani, perché è stato uno proprio dei primi casi che si sono presentati, i viaggi scolastici. Cara Deborah, siamo proprio agli ultimissimi secondi. Io voglio ringraziare l'ascoltatore che ci sta seguendo su Facebook e ha notato che la quarantena mi ha un po' appesantito, quindi chiederò a Nicoletta Carbone di mettermi in contatto con un dietologo o cercherò sul sito le puntate precedenti quando lei ha parlato delle diete durante la quarantena. Ma tu come tu vuoi sei salutare? Bello come sempre. Ma grazie. Io saluto da qua, continuerò a raccontarvi i mercati e soprattutto ho intenzione di cominciare questa battaglia bancaria perché mi sta veramente un po' disturbando. Stiamo continuando a ricevere una marea di mail da parte degli ascoltatori e a questo punto li dobbiamo assolutamente chiamare e chiedere loro che cosa hanno intenzione di fare, in attesa che chiaramente anche il governo si attrezzi a dare le istruzioni a tutti. Bene. Che dici? E allora, ottimo, facciamolo senz'altro. A domani!